X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Stefano Bollani, milanese di nascita ma fiorentino d'adozione, 42 anni, inizia a suonare il pianoforte a 6 anni. Nel 93 si diploma al conservatorio, dopo una breve parentesi nel mondo della musica pop si dedica al jazz. Fra le tappe fondamentali della sua carriera, l'incontro con Enrico Rama nel 96, con il quale tiene centinaia di concerti e incide ben 13 dischi. È molto più di un pianista jazz. È passato dal conservatorio a Rava, dal pop al teatro, dalla televisione alla radio ai libri. Oggi, con il suo terzo disco da solista, torna anche a cantare. Arrivano gli alieni a cavallo di un oggetto volante. Sono atterrati non molto distante dal frantoio della Rina. Arrivano gli alieni, hanno staccato i cavi del televisore per attirare l'attenzione. Una mossa un poco disperata, devo dire. Sbarcano gli alieni, col loro fare circospetto assai vezzoso. Ci conferma che mancavano da tempo, ma che il tempo è un concetto molto noioso. Allora, alieni che sbarcano sulla Terra col proposito di risolvere la situazione, Bollani, siamo messi così male, solo gli alieni ci possono salvare? Non so se siamo messi così male, ma l'idea della canzone è che appunto gli alieni non siano tutti così malvagi come pensiamo, quindi che gli altri da noi non siano così malvagi come pensiamo, ma devo dire la canzone non è molto metaforica, parla davvero di una possibile razza aliena che passa ogni tanto di qua a controllare che vada tutto bene, se riusciamo a avere un buon rapporto con la natura. Ma ci deve salvare da cosa? Da noi stessi, dalla politica? O anche dagli alieni cattivi, semplicemente. Noi siamo anche un terreno di conquista per altre popolazioni, di sicuro. Senti, ma hai fiducia nella nostra umanità o poca? Fiducia è un termine che non mi viene spontaneo. No, penso che l'umanità è esattamente come gli alieni. Ci diamo del tu, giusto? Sì, certo. Come gli alieni che sono esseri, abbia un karma che sta seguendo. Evidentemente ha un periodo di malattia che serve per poi rifiorire e diventare una società gilanica o non so cos'altro. Senti, ma se ascoltassero un po' di jazz saremmo tutti un po' meglio, più democratici. Aiuta il jazz? Il jazz come concezione è meglio della democrazia, decisamente. Perché, mi spieghi perché? Perché è un concetto che ho letto che è interessante. Perché in un gruppo jazz esiste in teoria il leader, cioè quello che prende più soldi degli altri e che fissa le serate. Ma in realtà musicalmente tutti contano allo stesso modo, per cui il bassista o il batterista, che sembrano in molte musiche quelli che tengono semplicemente il tempo, invece sono dei solisti alla pari degli altri. Quindi ognuno può dire la sua e qualsiasi piccola battuta proposta viene elaborata dal resto del gruppo. Quindi certo, meglio siamo di così. A prova d'orchestra, insomma, in qualche ecco, modo. Sì, prova d'orchestra è la versione negativa di quello che può succedere fra musicisti. Sì. Senti, arrivano gli alieni e il tuo terzo disco. Non sono solo pezzi inediti, ma anche qualche rivisitazione. Ma ti diverti di più rivisitare o creare ex novo oppure tutte e due? Tutte e due, quando non mi viene nessuna idea, per fortuna c'è la storia della musica da che a cui pescare. Cioè, hanno detto di te che se fossi un calciatore avresti la maglia 10, numero 10, quella del fantasista. Sì, ma è vero che la definizione di fantasista preferisci quella dell'improvvisatore? Ma io preferirei non avere definizioni, però se devo scegliere vanno bene entrambe quelle che hai detto. Tutte e due, fantasista. Sì, anche il 10. Ah, bello il 10. Maradona 10, certo. Platini? Platini, Del Piero. Cioè, va bene. Senti, ma a 6 anni volevi essere Adriano Celentano. Sì. Poi Fred Buscaglione, ne parlavamo prima. Ti facevo un pezzo di Celentano. Fallo che va bene. Poi Buscaglione. Sì. Teresa, Buscaglione, non lo so. Poi hai scoperto Carosone. È diventato Bollani, che è un po' di tutto questo messo insieme, anche qualcosa di più. Che cosa? Non lo so. Allora, cenami quel Celentano che volevi essere. Ok. Thank you. Buscaglione me l'hai fatto. E Carosone? Carosone, te ne faccio un altro di Carosone. Con tantissimi artisti, da Cicco Rea, Irene Grandi, fino all'orchestra di Lipsia col maestro Shaik, con cui hai suonato Gershwin, Ravel, Stravinsky, tutto. Ecco, però come li scegli i tuoi partner musicali? Ci scegliamo a vicenda, ma io vado a... È un fiuto, assolutamente. Esattamente come scegliere i partner della vita. Speri, ti incuriosisce qualcuno... E speri sempre che sia altrettanto curioso. Certo, ne hai scelti tanti, anche nella vita è andata così. No. Sei più cauto. Sono più cauto, più prudente. C'è un convincimento. Le conseguenze diverse. Sono più drammatiche. Fare un concerto con uno non è così grave come mettersi in casa una persona. Sì. Senti, pop, classica, jazz, fai tutto, hai suonato con tutti. Un po' l'abbiamo detto. Spesso si dice però che il pop o la musica commerciale siano meno nobili, ma c'è una musica di serie A, una musica di serie B oppure no? Devo farti un piccolo discorso, fammelo. Sembra un po' didascalico. Bravo. Ma i generi musicali, lo sanno in pochi, sono una cosa inventata recentemente, circa un centinaio di anni, poco più, soprattutto dai giornalisti che ne devono parlare. Rock and roll è un termine inventato da un DJ, no? Che diventa anche un modo per creare un'industria. Vendiamo insieme a rock and roll i blue jeans, la gomma americana, creiamo i giovani. Prima, quindi fino a 150 anni fa, la musica era divisa per destinazione. Musica per il funerale, musica per la liturgia, musica per far resuscitare i morti, se ci credi, musica per il trip, musica per i matrimoni. E tu ci credi? A cosa? No, non so, hai detto far resuscitare i morti, se ci credi. No, ci voglio credi? Dire che la musica ha anche un potere taumaturgico. Certo. Sì, io credo che abbia un potere taumaturgico. Ora, resuscitare i morti non l'hai provato ancora, non puoi giurarlo. Finché non lo provo di persona, però non da musicista, la devo provare. Senti, ma adesso che sei diventato cantante, se ti chiamassero a fare il giudice di X Factor, ci andresti? No. Perché sui giudici la penso come De André, quindi non penso che sia interessante fare il giudice. Faccio il musicista proprio per non dover fare un lavoro in cui giudico qualcuno. E quindi i talent non ti piacciono? No, non mi piacciono. Non c'è niente di buono lì dentro? Ah, ci sarà sicuramente, per carità, non mi piace il concetto. Ma non per li cui... guardi per snobismo oppure... Sì, sono snob. Va bene, però nel senso che non mi piace l'idea che i ragazzi vengano messi uno contro l'altro, tutto qua. Non mi piace neanche, in questo senso, neanche però la gara di Sanremo. Però è la competizione della vita, però. Ma è la competizione che creiamo noi esseri umani. Ma il campionato di calcio Il signore non piace. Ha parlato di competizione, no, se, è per vero. Chi è cattolico, questo diciamo. È vero. Campionato di calcio anche. Cristiano meglio. Esatto, però anche il campionato di calcio, infatti a me non piace il calcio. Non ti piace il calcio? Non mi piace nessuna tutto, gara. Tutto quello dove uno vince e l'altro perde. Niente. Non mi piace. Niente. La guerra, il calcio e X Factor, sono tre cose simili. Senti, di televisione però ne hai fatta, anche lì un po' si vince, un po' si perde, c'è l'Auditel. Sicuramente era una televisione diversa la tua, ma anche tu hai portato musica in televisione, senti un po' qua. Dove vai? Vado a Charleston, torno a casa mia. Ti prego, portami con te. No, ne ho abbastanza di tutto. Cerco la pace, vedrò se la vita può darmi ancora un po' di serenità e di dolcezza. Tu sai cosa intendo? No, so solo che ti amo. Grazie della battuta! Red, se tu te ne vai, cosa ne sarà di me? Che farò? Franco Monte mena un fischio. Immaginavo, ma non voglio perderlo. Devo trovare un modo per ricondurlo a me. Ma ci penserò domani. Dopotutto, domani è un altro giorno. Ma guia? Ah, bien sûr. Ecco, era un brano del programma tuo, Sostiene Bollani, che è andato in onda su Rai 3. Tu al piano, Caterina Guzzanti nel panni di Rossella, Neri Marco Re in quella di Red, e poi dell'Ispettore Cluso. passando da Via Col Vento alla Pantera Rosa. Sì. Quindi è un programma di musica che non sia noioso, comunque originale, si può fare. Ma sì, noi, sai, volevamo semplicemente in questo sketch, diciamo, far capire, porre l'accento, si dice, sulla colonna sonora e su quanto è importante, perché può distruggere un film. Questa era in teoria una scena di Via Col Vento. Se avesse avuto altre musiche sotto, avrebbe disintegrato gli attori oppure li avrebbe costretti a recitare in un altro modo. È una cosa di cui non ti accorgi finché non ti capita, come a me, ma a me veramente non ti capita di vedere un film senza musica, cioè che non ha ancora la colonna sonora. E ti rendi conto che c'è un vuoto allucinante che non potremmo sopportare. La colonna sonora parla, anzi arricchisce, è come il montaggio che fa il film, la colonna sonora aggiusta anche tanti film. E poi non solo, ma appunto, siccome si chiama colonna sonora perché una volta era effettivamente una parte della pellicola su cui si incideva la musica, e accompagna la vicenda, e quindi è un piano narrativo diverso, che però segue lo stesso asse temporale, quindi è molto interessante. Molto importante. Ecco, anche se sei andato bene con questo programma, però ti avevano messo in terza serata, se non mi ricordo male. Un dubbio l'hanno avuto. Ma tu conosci il problema? Beh, lo conosco molto. La domanda la faccio io a te, casomai. Hai protestato? No, io ero io sono apparso in terza serata, casomai ho cercato di essere promosso. Certo, sei andato in seconda poi, no? Sì, mi sembra prima, mezza seconda, tra terza e seconda, sì. Hanno un po' anticipato. Sì, certo. Senti, questa nuova Rai che forse verrà fuori da questo nuovo circuito, tu ti aspetti qualcosa o no? Se vuoi ti rifaccio la canzone di Marino. È la stessa cosa applicata alla Rai. Hanno messo due persone che almeno sanno che la televisione va accesa e dentro ci deve essere qualcosa. Che si vede già molto, mi sembra un passo avanti. Quindi, perché quelli non prima vengono cosa facevano? Dalla finanza, dalla Banca d'Italia, capito? In questo senso. Non erano dei ragionieri che facevano lo spettacolo, insomma, più o meno vengono di lì, non lo so. Io sono uno che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi tendo all'ottimismo. Io ti capisco, bisogna vedere se c'è il bicchiere però. Ah, vabbè, questo è vero. Senti, scavando nel tuo passato abbiamo scoperto che sei anche un ottimo imitatore. Sentiamo un po' qua. Mi raccomando qui di non far troppo rumore, perché dobbiamo immaginare un'atmosfera come piace a lui. Lui gli applausi li vuole così. Il pezzo, c'è una licenza poetica. Un pezzo si intitola Hai mai letto Kundera? Che è in realtà il titolo vero era Le coltri della storia, però abbiamo pensato che magari in classifica non sarebbe mai entrato. Interstizi siderali si confondono nei meandri della mente di un naïf. E tu hai mai letto Kundera? Ho capito che non va bene, va bene. Le meccaniche celesti ci obbligarono a un confronto con la dinastia dei Ming. E tu hai mai letto Kundera? Hai mai letto Kundera? Forever again Kundera. Senti, ma Battiato come l'ha presa? L'ho incontrato una volta sola, Battiato, per le scale. Mi ha parlato in francese. E tu capivi, sì. Io gli ho risposto in francese e poi ci siamo salutati. Commentato il tuo... Lui forse non sa se io l'ho riconosciuto, io non so se lui mi ha riconosciuto, perché abbiamo parlato francese. Allora ti aveva preso per Moustaki. Sì, oppure mi aveva preso per il culo, a dire il vero, giustamente mi aveva reso la pariglia. Credo fosse questo. Nessuno deve vincere. No, esatto. Uno palla al centro. Però io vorrei che ne incontrassi un altro col quale parlare francese. Arbore, fammi un po' Arbore. Arbore? Arbore non mi viene benissimo. Arbore. Sì, che ti viene benissimo. No, guarda, non mi viene tanto. Si sa, vai con Arbore. No, sai che Arbore non lo faccio. Ma non lo dai. Faccio. L'ho fatto una volta davanti a lui e non mi è venuto tanto. Allora, bene. Johnny Dorelli. Johnny, la mia specialità. Vai. Johnny Minoli, come stai, Minoli? Sei a posto, ti vedo bene in forma, ti faccio questo pezzo. I found my love in Portofino, che nei sogni credo ancora. Tra l'altro ho fatto l'imitazione anche a lui. Queste sono soddisfazioni. È lui? È vero, lui si è divertito molto. Siamo andati insieme ospiti a Sanremo. E lui mi ha detto, allora se non me la sento di cantare domani canti tu. È molto divertente. Hai cantato? No, se l'è sentita. Se sì, figurati se non se la sente. Senti, ma per te suonare mi sembra che sia un po' come parlare, cioè credi che certe cose possono essere dette meglio con le note che con le parole? Ah, sì. Questo è facile. È facile. Ma è lo facile. Credi anche tu che lavori con le parole? Sì, io spero di arrivarci. Io spero di arrivarci. Guarda, le parole confondono e lo dice ancora una volta. Sembro cattolico oggi, però lo dice la Bibbia, no? La Torre di Babele. Non è mica da vergognarsi. Siccome non lo sono, mi stupisco perché continuo a parlare di religione. Però sto Papa t'ha convinto. Però la Bibbia racconta della Torre di Babele, le lingue sono fatte per dividerci, perché non ci capiamo fra noi. Se non ci fossero le lingue staremmo meglio. Ma in molti momenti della storia la musica ha risolto tanti problemi di incomunicabilità. Speriamo. Vero, io ricordo nel 77 quando si sparava con facilità, invece i grandi concerti hanno rimesso insieme la possibilità di parlarsi. Senti, è probabile. È andata così. Nel 2013 tu hai scritto il libro Parliamo di musica. Hai sentito il bisogno di parlare di musica. Sì. Perché trovi che se ne parli poco? Ma il libro era il titolo voleva dire che di solito quando si parla di musica si parla di tutto quello che sta intorno alla musica, ma non si riesce a parlare della musica perché è la cosa più difficile, naturalmente, perché sembra che siano necessari dei termini tecnici, per cui tutti dicono quel brano lì a me non piace, a me piace, l'ho trovato un po' debole, un po' forte, un po' giallo, un po' verde. Nessuno riesce a parlare di musica e a volte neanche i musicisti, ed è un peccato. Ma tu dici che nella vita è il vero spettacolo, e penso che sia vero, anch'io sono d'accordo, è ascoltare. Allora ci fai ascoltare qualcosa, magari un remake dei tuoi ultimi? Va bene, ti faccio quello che vuoi. Quello che voglio, ti farò quello che voglio. Ah. Suoni, di rumori, sei riuscito a ricreare con un'orchestra vera un'idea di Jerry Lewis, famosissima. Pianista eccentrico, perché sei tu tante cose, lo stiamo dicendo, anche nel look vedo che sei abbastanza, somigli un po' a Giovanni Allevi, ti piace? Ah, ho lo stesso look? Un po' eccentrico. È strano perché io sono molto più giovane. Sei molto più giovane? Sì, è vero, ma sei sicuro? Ci tenevo a dirla. Davvero? Molto. No, ma ti piace? Sono quei tre anni che fanno la differenza. Ah, fanno la differenza. Lascia perdere, sono un giovane pianista, lui è una tragica realtà. Ah, una star, insomma. Sì. Sì. Non ti piace proprio? Sai come si dice in Italia? Una giovane promessa, chi lo diceva? Arbasino, Flaiano. Sì, qualcuno. Da giovane promessa si passa direttamente a tragica realtà. Subito. Quindi io sono una giovane promessa. Senti, ma per piacere bisogna tirarsela un po', secondo te, oppure no? Per piacere agli altri? Non c'è bisogno. Questa era facile. Senti, musica, teatro, televisione, abbiamo detto, hai fatto un po' tutto. Ho letto che sei anche apparso su Topolino con lo pseudonimo di... Paperefano Bolletta. Paperefano Bolletta. Paperefano. Perché no, è un personaggio, mi hanno paperizzato, come dicono loro. È un personaggio amico di Paperino che è un pianista, un po' squattrinato. Che fa qualcosa. Ma ha scritto una canzone, sì, in una storia recente. Ha fatto un paio di storie. Scrive delle canzoni e cerca di sbarcare il lunario. Bolletta, te la dice tutta. Certo, beh, mi sembra chiaro. Sì, abbastanza chiaro. Senti. Prima di chiudere vorrei chiederti una cosa. Io, come forse sai, questo programma lo conduco e ho due amici, due compagni di viaggio, che sono Pietrangelo Buttafuoco e Mario Secchi, uno siciliano, l'altro sardo. Ecco, se dovessi scegliere due pezzi per loro, o come origine, oppure perché li conosci e li interpreti, mi aiuti? Uno siciliano, uno sardo. Ce ne vorrebbe uno solo che li racchiude entrambi. Sì, vediamo, chi per esempio? Non lo so, adesso te lo provo. Prova. Proviamo. Dimmi una canzone siciliana al volo. Ah, no, sono talmente tante che non ce ne viene neanche invento una. Invento delle cose di Battiato meravigliose, non so, per esempio, non so, vedi un po' tu. È vero, c'è sempre Battiato. Lì risolve tutti i problemi in Sicilia. Allora faccio la mia di Battiato, ecco, giustamente. Storia, afflitti da generici bonton, uomini di marmo. Questo, così abbiamo sistemato la Sicilia con simpatia. Invece io per la Sardegna avrei una scelta. Dimmi, ce l'ho anch'io questa. Un sardo d'adozione, De André. De André, hai ragione. Mi piacerebbe, ma per l'appunto invece mi è venuto in mente un pezzo sardo di cui forse ricordo le parole. Vediamo. Lascia Sarbecken, picca su caddo, corre di cambiare, soprattutto in su ballare. Per ballare su twist. Lascia Sarbecken, questa non la conosci. No, assolutamente, ma è fregato come. Non so se la conoscerò. Mario Secchi glielo chiederò. La conosci per forza, questi sono i Barritas. Io non mi ricordo il testo, Barritas, ma io tutte le sere, io se non mi faccio un Barritas, non riesco ad andare a dormire. Chiudiamo con una canzone per Minoli. Per Minoli non ti faccio un pezzo di quello Mina perché sarebbe troppo stupido. Ma insomma, però, perché no? Potrebbe essere? Potrebbe essere. Stupido, bene. Ma bello. Allora va bene. Questo è un pezzo. Ti accenno. Stringimi forte i polsi, te la ricordi? Meraviglioso.